Quinto canto del Purgatorio dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, quinto canto. Io era già da quell'ombre partito e seguitava l'orme del mio duca, quando di retro a me, drizzando il dito, una gridò: «Ve' che non par che luca lo raggio da sinistra a quel di sotto, e come vivo par che si conduca!» Gli occhi rivolsi al suon di questo motto, e vidile guardar per maraviglia pur me, e il lume ch'era rotto. «Perché l'animo tuo tanto s'impiglia?» disse il maestro, «che l'andare allenti? Che ti fa ciò che quivi si pispiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti. Sta come torre ferma che non crolla già mai la cima per soffiar di venti, che sempre l'omo in cui pensier rampolla sovra pensier da sé dilunga il segno, perché la foga l'un dell'altro insolla. Che potea io ridir se non io vegno?» Dissilo alquanto del color consperso che fa l'uom di perdon talvolta degno. E intanto per la costa di traverso venivan genti innanzi a noi un poco, cantando miserere a verso. Quando s'accorser chi non dava loco per lo mio corpo al trapassar di raggi, mutar lor canto in un «oh» lungo e roco. E due di loro, in forma di messaggi, corsero incontra noi e dimandarne: «Di vostra condizion fatene saggi!» E il mio maestro: «Voi potete andarne e ritrarre a color che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne. Se per veder la sua ombra restaro, com'io avviso, assai è lor risposto. Faccianli onore, ed esser può lor caro.» Vapori accesi non vid'io sì tosto di prima notte mai fender sereno, né, sol calando, nuvole d'agosto, che color non tornasser suso in meno. E giunti là, con gli altri a noi tier volta, come schiera che scorre senza freno. «Questa gente che preme a noi è molta, e vegnonti a pregar», disse il poeta, «però pur va, e in andando ascolta. O anima che vai per esser lieta, con quelle membra con le quai nascesti», venian gridando, «un poco il passo queta. Guarda s'alcun di noi unqua vedesti, sì che di lui di là novella porti. Deh, perché vai? Deh, perché non t'arresti?» Noi fummo tutti già per forza morti, e peccatori infino all'ultima ora, quivi lume del ciel ne fece accorti. Sì che, pentendo e perdonando, fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé veder n'accora. E io: «Perché nei vostri visi guati non riconosco alcun? Ma s'a voi piace, cosa ch'io possa, spiriti ben nati, voi dite, e io farò per quella pace che dietro a piedi di sì fatta guida di mondo in mondo cercar mi si face.» E uno incominciò: «Ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo, pur che il voler non possa non ricida. Ond'io, che solo innanzi agli altri parlo, ti priego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi sie di tuoi prieghi cortese infano, sì che ben per me s'adori, pur chi possa purgar le gravi offese. quindi fu io, ma li profondi fori, ond uscì il sangue in sul quale io sedea, fattimi fuoro in grembo agli antenori, là dov io più sicuro esser credea. Quel da esti il fe far che m'avea in ira, assai più là che dritto non volea. Ma s'io fosse fuggito in ver la mira, quando fu sovraggiunto a Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Corsi al palude, e le cannucce e il braco m'impigliar sì ch'i caddi, e lì vid'io delle mie vene farsi in terra laco. Poi disse un altro: «Deh, se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte, con buona pietate aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, io son bon conte. Giovanna o altri non ha di me cura, perch'io vo tra costor con bassa fronte». E io a lui: «Qual forza o qual ventura ti traviò sì fuor di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura?» «Oh», rispuose elli, «a piè del Casentino traversa un'acqua ch'ha nome l'Archiano, che sovra l'Ermo nasce in Apennino. Lave il vocabol suo diventa vano, arrivai io forato nella gola, fuggendo a piede e sanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì, e quivi caddi, e rimase la mia carne sola. Io dirò vero, e tu il ridì tra i vivi. L'angel di Dio mi prese, e quel d'inferno gridava: O tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'etterno per una lagrimetta che l mi toglie, ma io farò dell'altro altro governo. Ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie. Giunse quel mal voler che pur mal chiede con lo intelletto, e mosse il fummo e il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come il dì fu spento, da Prato Magno al Gran Giogo coperse di nebbia, e il ciel di sopra fece intento, sì che il pregno aere in acqua si converse. La pioggia cadde, e a fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse. E come ai rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in su la foce trovò l'Archian rubesto, e quel sospinse nell'arno e sciolse al mio petto la croce ch'i fe di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le ripe e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. Deh, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricorditi di me, che son la pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma. Salsi colui che n'annellata pria, disposando m'avea con la sua gemma». Fine del quinto canto del Purgatorio.